Appena Gustav aveva visto entrare nella sala delle colazioni Lisbeth, gli era precipitato il cucchiaio dalle mani. Aveva fatto in modo che nessuno se ne accorgesse, lasciandolo cadere a terra e fingendo un colpo di tosse. Gustav si era seduto di fronte alla porta d'entrata proprio per essere certo di cogliere il momento in cui quella ragazza, che tanto lo incuriosiva, fosse entrata. Durante l'adolescenza, Gustav era stato spesso deriso dai suoi amici per un eccesso di romanticismo, perché scriveva poesie, perché si gettava a capofitto in tutto quello che faceva, per i suoi amori tormentati, per le calde lacrime che versava quando era preda delle passioni. Cresciuto, diventato uno studioso e infine sposatosi, Gustav amava credere di essersi tramutato in un altro uomo, perfettamente in controllo di ogni aspetto della sua vita. Quando Gustav aveva visto Lisbeth entrare nella sala delle colazioni, sola e apparentemente timorosa, il suo sguardo si era fissato su di lei per alcuni secondi. Non era riuscito nemmeno più a seguire il discorso del suo commensale. Non solo la foto non era menzognera, ma la ragazza era ancora più bella nella realtà. Bionda, di carnagione chiarissima, occhi verdi messi in risalto da un vestito color smeraldo. Lisbeth aveva dei tratti fisionomici simili ai suoi ed era estremamente seducente. Gustav aveva avuto un tuffo al cuore. Vedeva tante belle studentesse ogni giorno, ma non aveva mai formulato alcun pensiero improprio su di loro, benché la differenza d'età fosse minima. Sempre all'università vedeva tante professoresse ogni giorno, ma nessuna era particolarmente attraente e, anzi, il loro look, generalmente trasandato e età avanzata, non gliele rendevano affatto desiderabili. Gustav vedeva anche tante madri quando accompagnava le bimbe a scuola e molte sembravano interessate a lui. Ma lui, integerrimo, aveva in mente solo la moglie e, tranne che per pochi, innocenti secondi, non pensava a nessun'altra. Non appena vide Lisbeth, invece, qualcosa dentro di lui scattò. Dopo che a Gustav era caduto il cucchiaio sotto il tavolo, Lisbeth gli aveva rivolto un'occhiata distratta, gli aveva fatto un sorriso forzatissimo, senza neppur scoprire i denti. Era arrossita leggermente per il caldo della stanza e, senza troppi ripensamenti, era andata a prendere la sua colazione. Gustav aveva continuato a fissarla, sperando che si sarebbe seduta al suo tavolo, ma la ragazza gli aveva rivolto la schiena ed era andata verso quello più lontano. Quando Gustav aveva visto Lisbeth entrare nella sala delle colazioni, sola e apparentemente timorosa, il suo sguardo si era fissato su di lei per alcuni secondi. Non era riuscito nemmeno più a seguire il discorso del suo commensale. Non solo la foto non era menzognera, ma la ragazza era ancora più bella nella realtà, bionda, di carnagione chiarissima, occhi verdi messi in risalto da un vestito color smeraldo. Lisbeth aveva dei tratti fisionomici simili ai suoi ed era estremamente seducente. Gustav aveva avuto un tuffo al cuore. Vedeva tante belle studentesse ogni giorno, ma non aveva mai formulato alcun pensiero improprio su di loro, benché la differenza d'età fosse minima. Sempre all'università vedeva tante professoresse ogni giorno, ma nessuna era particolarmente attraente e, anzi, il loro look, generalmente trasandato e età avanzata, non gliele rendevano affatto desiderabili. Gustav vedeva anche tante madri quando accompagnava le bimbe a scuola e molte sembravano interessate a lui. Ma lui, integerrimo, aveva in mente solo la moglie e, tranne che per pochi innocenti secondi, non pensava a nessun'altra. Non appena vide Lisbeth, invece, qualcosa dentro di lui scattò. Dopo che a Gustav era caduto il cucchiaio sotto il tavolo, Lisbeth gli aveva rivolto un'occhiata distratta, gli aveva fatto un sorriso forzatissimo, senza neppur scoprire i denti. Era arrossita leggermente per il caldo della stanza e, senza troppi ripensamenti, era andata a prendere la sua colazione. Gustav aveva continuato a fissarla, sperando che si sarebbe seduta al suo tavolo, ma la ragazza gli aveva rivolto la schiena ed era andata verso quello più lontano. Welcome to our hotel. Thank you. Good evening. Good evening. I was really wondering, who is this person that comes the last at the conference? Continuiamo in italiano, non vi preoccupate. Volevamo dare un po' di atmosfera di quello che succede in questo meraviglioso libro. È la nostra ricercatrice storica, come una vera diva, è arrivata all'ultima alla conferenza. E ho googlato un po', mi sono chiesta, ma chi è questa tizia che, insomma, tutta una giornata di conferenza non viene? E ho scoperto che io leggo addirittura una delle riviste che lei redige in italiano sui gesuiti. Mi potrebbe dire qualcosa su questo? Buongiorno, e sì, effettivamente è probabile che lei abbia letto qualcosa di mio, perché ho scritto veramente tanto, in tante lingue. E sì, sono qui per viaggio, però normalmente sono abituata a viaggiare soprattutto nel passato, infatti sono interessata alle storie di uomini e donne vissuti nella prima età moderna, quindi 1500, 600, 700. E quello che mi interessa soprattutto è accedere alle loro emozioni, quindi ai loro sogni, desideri, a quello che volevano dalla vita, persone morte da oltre 400 anni, ma che per tanti aspetti sono così vicino a noi. E quando non mi immergo nelle vite di questi missionari, per lo più, che volevano recarsi in Estremo Oriente, ne scrivo, oppure correggo cose scritte da altri al riguardo, quindi lavoro per diverse università o istituzioni culturali come gli archivi, perché questo mondo dei documenti antichi è proprio ciò che mi piace di più. Però comunque ho visto che ha scritto dei romanzi, poi anche molto letti. Sì, cosa mi consiglierebbe? Effettivamente c'è un ultimo romanzo uscito da poco più di un anno, Camera 817, poi c'è un altro romanzo che uscirà a breve, fra un paio di mesi, Amore brutale, e poi ne ho appena scritto un altro. Quindi mi piace molto non solo essere nelle parole altrui quando correggo i testi degli altri o quando scrivo i miei storici, ma mi piace anche inventare mondi possibili, mondi che potevano essere, non sono stati, mondi che potrebbero essere tuttora o che saranno. Quindi sicuramente da me troverà sempre molte parole ed emozioni, soprattutto. Allora, dice che il romanzo si chiama 817, Camera 817, vabbè. Allora, sto guardando se c'è un... Ah, è libera. Allora, le do la camera 817. Grazie mille. Mi sembra una stanza che presagisce grandi eventi. Speriamo. Buona serata. Grazie. Buonasera e benvenuti in camera 817. Come avete già sentito, potete già indovinare che si tratta di un libro molto, molto bello, molto particolare, che profuma un po' di sorelle Bronte moderne, che dà un'impressione di tempo che non esiste, un tempo catturato in una camera che dà l'importanza a quello che succede, che dà l'importanza alle nostre emozioni, a quello che siamo effettivamente, ma non ci lascia proprio pensare di cose fuori da questa stanza. È proprio un'attenzione esclusiva di oggi che è difficilissimo avere con tutti i dispositivi, i telefonini, le reti sociali. Questa camera proprio immortala un'importanza degli eventi che ci succedono in vita più o meno raramente, ma che poi alla fine creano le memorie che fanno un impatto così profondo che uno si chiede: ma è possibile che siamo così poco consapevoli? È possibile che non ci rendiamo conto che ogni attimo in nostra vita potrebbe essere così? Però bisogna anche avere delle condizioni. Allora, visto che questo è un discorso molto astratto, entriamo adesso in questa camera. Entriamo in questa camera. Buonasera, dottoressa. Buonasera, avanti. Benvenuta in questa camera 817. Grazie mille, le è piaciuta la camera? Perfetta. Perfetta. Perfetta. Qualcuno avrebbe potuto immaginarsi scenari da film horror, come se questa camera fosse luogo di una possessione demoniaca oppure di un crimine, viste le mie passioni, però così non è. Ah, meno male. Però è interessante che, come lei ha sottolineato, la camera non sia soltanto un luogo, ma sia anche un personaggio, una soglia, un tramite, qualcosa in cui le persone entrano in un certo modo e ne escono poi trasformate, quasi come in una sorta di operazione alchemica, perché anche all'interno di uno spazio così piccolo possono succedere dei cambiamenti, dei mutamenti, se siamo pronti in quel momento, che poi cambiano il corso della vita della singola persona oppure anche il corso della storia. Ad esempio, parlando di stanze, mi veniva in mente la stanza del Senato, presso cui Giulio Cesare si recò allegramente una mattina per uscirne trafitto da decine di coltellate che cambiarono effettivamente il corso della storia. In un luogo così piccolo, contenuto, all'apparenza sicuro, in realtà le stanze ci mostrano di essere veramente dei luoghi liminali e pericolosi. Quindi una stanza con un Brutus dentro, dice. Impero romano, fine di un'epoca di Giulio Cesare. A me viene in mente invece quello bizantino che poi è venuto dopo. C'era una stanza in cui sono stati nati tantissimi imperatori e erano chiamati porfirogeniti perché la stanza era di color porpora, che era simbolo dell'impero romano. La stanza, simbologia di stanza in questo libro, anche stesso titolo di libro, è proprio quell'attimo che collega tempo-spazio, perché proprio quel spazio, come dice lei, che poteva essere forse semplicemente un brutto spazio da horror, invece non lo è. In questo caso siamo un bel hotel a Memphis, America, no? È comunque un spazio di qualcosa di importante che non possiamo rivelare, per un spazio molto importante, perché cosa c'è più importante di vita di una persona? Tutti stiamo mettendo obiettivi molto alti, cerchiamo di raggiungere ogni anno, ogni mese, ogni giorno qualcosa di importante, ma cosa c'è di più importante degli attimi bei, vissuti in pieno, che abbiamo un po' dimenticato in questo mondo di una corsa eterna di essere sempre più belli, più forti, più visti, più importanti, ma poi alla fine ci fermiamo infelici e in un ciclo ripetuto di consumismo, di infelicità proprio dovuta alle aspettative societali molto molto alte da noi. Quindi una stanza così modesta come concetto in questo libro, con una tematica anche la tematica di amore, abbastanza rappresentata in un modo così innocuo e così brontesco, come ho detto, ma poi alla fine pesa molto molto di più e ci lascia un gusto in bocca che dice è molto più di quello che si pensasse all'inizio. Quindi la categoria di tempo in questa stanza: un attimo trasformativo di una persona. A proposito, Io ho già ordinato il suo libro su Amazon, ho iniziato a leggere e all'inizio ho visto un po' di ragionamenti, dei caratteri principali, di protagonisti, di una persona che è molto razionale, di altra persona che è molto emotiva e tanti ragionamenti sulla vita, tempo trascorso, cosa vuol dire tempo? Il tempo è la misura di qualcosa? Tipo, io ho tanta esperienza in questo, io sono vissuta tanto tempo con mio marito, ma poi alla fine cosa vuol dire il tempo in questo libro? Esatto, oltre che il ruolo della stanza, della camera, del luogo, c'è anche un altro elemento molto importante che si incrocia sempre ed è quello del tempo. E potremmo pensare anche da storici che per giungere a un evento veramente che cambia la storia sia necessario un lungo periodo di anni, di secoli, di ere geologiche, ma in realtà, come succede in questo libro, bastano veramente pochi attimi condensati di passione e partecipazione da parte di due esseri umani per cambiare il corso quantomeno della loro storia, se non della storia con la S maiuscola. E partiamo da personaggi che hanno un tempo lungo alle spalle, tutta la loro esistenza, le loro granitiche certezze, appunto il matrimonio stabile dello studioso, mentre invece la vita sempre disordinata della studiosa, arrivano a questo momento in cui il tempo sembra veramente fermarsi e in pochi giorni si realizza più di tutto quello che hanno fatto nella vita precedente, quindi sicuramente il tempo non è oggettivo. No, infatti, questo tempo è proprio la definizione di Pantarei per entrambi, mi sa. Ma poi si sa bene che gli storici hanno i problemi con la realtà, no? Perché diciamo, la realtà non ha ancora le note a piè della pagina, non la sanno leggere, e quindi diciamo io questo libro personalmente adesso leggendo l'ho visto come una critica molto sottile, molto molto educata della falsità della società, dell'etica inesistente, quasi mi viene da dire di un'etica di livello più elevato, perché cosa c'è di più importante di una vita umana? Mi sa che tutti un po' ci siamo dimenticati di questo aspetto, cosa c'è di più importante di star bene? In questo libro si proprio festeggia star bene con gli altri, con se stessi, con le nostre scelte, non pensare ai giudizi, cosa è sbagliato, cosa non è sbagliato, cosa direbbe la società, perché alla fine la società ha delle aspettative che poi lei stessa non rispetta. Sì, in un certo senso potremmo pensare che questo sia un fenomeno soltanto recente, che i protagonisti si possano comportare in questo modo, sicuramente non etico, non morale in certi casi, perché viviamo in tempi più liberi, però studiando la storia, insomma, anzitutto io non la giudico dal punto di vista morale, non sono interessata, non fa parte del mio ruolo. Inoltre, anche studiando l'epoca moderna, quindi il secolo XVI, XVII, XVIII, abbiamo da una parte le leggi, tutto quello che ci viene trasmesso dalle leggi, cioè che il matrimonio deve essere monogamico, che non è possibile avere rapporti prima del matrimonio, che l'adulterio viene punito non solo dalla Chiesa ma anche insomma dalla forma di governo in vigore, insomma, considerando che Chiesa e Stato comunque hanno sempre convissuto da questo punto di vista, ma in realtà le leggi dicono come la realtà doveva essere e la pratica, i casi singoli ci mostrano invece come la realtà era, quindi una realtà tutto sommato in cui qualsiasi cosa era possibile, c'erano sempre amori tempestosi, e ad esempio pensiamo alla storia della monaca di Monza raccontata da Manzoni, in cui c'è questa povera ragazza di famiglia ricca, insomma, che viene data a un monastero pur non avendo alcuna vocazione, fa la suora in un posto chiuso dove non possono entrare gli uomini, le tentazioni, eccetera. Passa uno sconosciuto dal passato torbido fuori dalle mura, La chiama, lei risponde e arriviamo a un punto in cui hanno un figlio insieme, uccidono delle persone insieme, lui scappa, viene ucciso, lei viene murata viva, quindi insomma queste cose succedevano anche nel passato e la morale del dover essere e la morale di quello che poi effettivamente è sono molto diverse. Di certo anche nel raccontare questa storia non ho voluto assolutamente avere un approccio puritano a niente, ma raccontare di quello che fanno le persone in preda a una passione che li ha travolti. È un bellissimo racconto, ma poi anche come sono strutturati i caratteri, possiamo dire che si vede chiaramente questo impatto della società sul personaggio di Gustav, che è protagonista maschile, no? Che poi alla fine ha un approccio molto rigido e diciamo tipico visto da un uomo, ma non dovrebbe esistere una cosa tipica vista da un uomo, perché emozioni ce ne abbiamo tutti quanti. E quindi diciamo Gustav, anche se la nostra scrittrice storica studiosa non ha diciamo un giudizio e non ha questo atteggiamento, Gustav comunque è formato dalla società, cioè gli è dato questo ruolo di maschio in relazione. Però la cosa più bella che piace e che colpisce in questo libro è la libertà. Allora, leggendolo uno si trova in uno spazio di libertà, di coraggio, di essere noi stessi, perché penso che ogni persona in questa stanza qua si è trovata in posizione di Gustav o di Lisbeth in uno o l'altro modo, quindi si è trovata di voler essere in pieno se stessa, di non avere dei limiti, di sentire, di profumare, di vivere senza essere giudicata o giudicato. E quello è molto bello, leggere queste pagine dove vedi una donna che vive al massimo, dici sì, tutti alla fine vogliamo essere così, ma ovviamente non è sempre possibile essere così. E questo è il bello, e per quello si legge. Poi una domanda, visto che è l'ultima giornata, no, della conferenza, si avvicina al check-out. Guardando nella stanza 817, lei ha diciamo dei pensieri sulla permanenza in quella stanza o diciamo sulla permanenza in quella stanza dei caratteri di questo libro? Questo che è successo era più una necessità o vede tutto con un rimpianto? Questa è una domanda che sicuramente i protagonisti risponderebbero in modo molto diverso e anzi forse persino opposto. Di certo in quella stanza entrambi hanno trovato anche il coraggio di vivere in modo libero una passione inaspettata che avevano provato, perché naturalmente queste di passione sono le storie che amiamo leggere, anche perché siamo influenzati dalla letteratura romantica, quindi a nessuno interessa avere un romanzo d'amore in cui ci sono i protagonisti che stanno insieme tutti i giorni per il mutuo, il garage, i figli, il mantenimento. Questa è una storia che non suscita tanta passione come invece suscita una storia diversa che però non può essere vissuta, magari alla lunga va soltanto piuttosto sognata, e però entrambi i personaggi mostrano il coraggio di voler perseguire le loro passioni indipendentemente dalle conseguenze morali o anche concrete. Quindi tutto sommato è una stanza in cui effettivamente questa trasformazione alchemica di cui parlavamo all'inizio ha luogo, perché entrambi arrivano alla conferenza come una certa persona e ne escono trasformati. Se dovesse scegliere un'altra fine di questa storia, avrebbe qualche idea? Io so la fine della storia, voi dovete leggere. È molto bella e inaspettata, posso dire, quindi non è una cosa tipica, happy end, è molto interessante ed è proprio da leggere per quello, perché ha una certa profondità che ci lascia pensare, che ci lascia anche capire che alcuni attimi che abbiamo immortalato, o meglio dire fossilizzato, in un certo spazio-tempo, ci colpiscono e ci lasciano un'impronta molto più profonda forse di questi tempi o amori o le emozioni dilatati in tempo con un tipico da una vita che stanno questi due insieme, ma poi dopo di sostanza è rimasto poco, è svanito, quindi diciamo che qua si punta su qualità e su qualcosa che poi alla fine non svanirà mai, perché quell'amore rimane in cuori di caratteri che la vivono e non invecchierà, non morirà, non si ammalerà, non faranno il mutuo, come ha detto Elisa, ma sarà sempre qualcosa di eccezionale. Difficile pensare di riscrivere la storia. Quando l'avevo cominciata non avevo in mente questo finale, ma poi mi ci hanno portato gli stessi protagonisti, quindi io mi sento come di aver seguito eseguito la loro volontà. Quindi c'era una canalizzazione di un'energia che doveva essere presentata, che non poteva che condurre lì. Ottimo. E allora possiamo fare check out. Posso prendere la camera? Grazie. Adesso se qualcuno vuole una copia di libro firmato può venire dalla nostra scrittrice, che ne ha un po' qua. Sì, esatto. Ottimo. Avete delle domande sul libro? Vi abbiamo incuriositi? C'è qualcuno sicuramente che vuole fare qualche domanda? No? I bambini sembrano i bambini. Più. Dovranno aspettare 18 anni. È vietato ai minori. Volevamo ringraziare alla biblioteca, alla direttrice, a tutti ex colleghi di Elisa, e un ringraziamento speciale a Giulio che ha letto alcuni paragrafi di questo libro che avete sentito all'entrata, prima dell'inizio della serata, e alla Sonia che ha sostenuto questo gran lavoro di Giulio, essendo con i figli. Ringrazio a tutti che sono venuti, buona serata, grazie di essere venuti, e allora le firme di libro, se l'autrice vuole dire qualcosa. No, ti ringrazio a te per la copresentazione, è stato qualcosa di un po' diverso dalle presentazioni a cui sono abituata, quelle sulle mie ricerche, diciamo, invece che sulla mia produzione narrativa, quindi ti ringrazio molto. Grazie mille, grazie. Ho cercato di fare qualcosa di un po' diverso, perché poi alla fine è difficile fare presentazione di questo tipo di libro dove non bisogna rivelare troppo, ma diciamo non sta in mio carattere non rivelare. Mi sono proprio impegnata, non so se avevo successo, però ecco. Grazie.